Buongiorno, buongiorno dottor Carlo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Posizioni, illusioni che siamo al di fuori delle regole, al di fuori della dipendenza che esiste tra azienda e amministratore delegato, sono cose che sono cavolate, non esistono. Semplicemente per chiarire il processo. La cosa importante per la Ferrari non sono soltanto i risultati economici, ma è vincere. E sono 6 anni che stiamo facendo una fatica da Dio, abbiamo i migliori piloti. Guardi che sia Alonso che Raikkonen sono campioni del mondo. Guardi che sono. Sono tutte e due, non riusciamo a portare a fare, mi dà un fastidio enorme, lo stiamo guardando da parecchio tempo, sono cose che non vanno bene. Come lo è per me, come lo è per lui e tutti gli altri, noi siamo a servizio dell'azienda. Quando l'azienda cambia idea, o perlomeno quando non c'è più la convergenza degli obiettivi, le cose cambiano. Non ho detto assolutamente una cosa simile. Io vi ricordo tutti quanti che sono due parti della realtà Ferrari che sono importanti a noi come azionista e a noi come azienda. La prima è che ovviamente i risultati economici, il volume, cosa su cui Luca ha fatto un grandissimo lavoro, gli ho fatto i complimenti, eccetera. L'altra è la gestione sportiva. Il cuore di Ferrari è quello di vincere in Formula 1, io sono un tifoso, da anni. No, io sto semplicemente dicendo che è una cosa da riparare, da mettere a posto, perché una cosa è vendere le macchine e fare risultati, l'altra cosa è che la parte essenziale di quello che facciamo noi nei mercati è rappresentare una Ferrari vincente in Formula 1. Questo è un punto che non è negoziabile, è totalmente, e rimane come l'obiettivo assolutamente chiaro, e non possiamo accettare una situazione che è diversa da questa. Okay. Non voglio vedere gente in 7ª posizione, in 12ª, sono cose che a me non interessano. Non interessano a me come non interessano alla FIA. Il Gran Premio è stato il naturale, direi, corollario, la naturale cornice. Gran premio peggiore dal punto di vista dei risultati dell'anno intero per la Rossa, con Alonso ritirato e Raikkonen con una 9ª posizione che gli è abituale in questa stagione. Dicevo, la corsa di Monza è stata il naturale corollario del momento da profondo rosso della Ferrari. Dunque, la voce era, ricapitolando, la voce Montezemolo via dalla presidenza della Ferrari c'era già nei giorni scorsi. È arrivata puntuale, annunciata da Leo Turrini, peraltro giovedì, a questi microfoni. Adesso arriva e smentisce tutto, cosa che si è verificata. E poi Marchionne è entrato con la scavatrice dei problemi della Ferrari. Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera e prestigiosa firma del Corriere, soprattutto sul fronte della Formula 1. Ciao Flavio. Ciao a tutti, ciao. Dunque, il prossimo scenario sarà Marchionne presidente della Ferrari? Non credo in maniera così diretta, probabilmente ci sarà un suo rappresentante, una persona che comunque dialogherà direttamente con lui, perché credo che abbia degli impegni ben precisi su altri versanti, e la giornata è di 24 ore anche per lui. Sì. Ci tenevo comunque a dire una cosa, però per correttezza di fatti e di sequenze temporali. La bufera fosse in arrivo, forse per la prima volta l'aveva scritto quest'estate Bianca Carretto in un articolo di economia pubblicato delle pagine nostre del Corriere. Poi dopo la cosa è maturata, anche se forse questa svolta di questi giorni è stata veramente un po' anche, non dico imprevista, però sicuramente c'è stata un'accelerazione sulla cui natura dobbiamo ancora indagare, cioè bisogna capire anche se ci sono state delle convenienze a far venire fuori questa cosa qua, oppure se è una cosa che ha avuto un suo sviluppo naturale, perché era inevitabile che finisse così. Comunque lo scenario è anche del profondo rosso, non solo del profondo rosso, visti i risultati in pista. Certo, ma senti Flavio, la motivazione è questa: 6 anni senza risultati, con molti soldi spesi, con i piloti migliori come dice Marchionne, quindi il motivo della sfiducia che è stata già votata di fatto è questo? Beh, La Formula 1 non è una scienza esatta, sicuramente la Ferrari e quindi la gestione di manutenzione in tutti i tempi, quella anche di Stefano Domenicali, non ha certo sbagliato andando a prendere ad esempio Fernando Alonso. Qua bisogna anche essere un po', come dire, onesti rispetto alla storia. Ci sono stati due mondiali almeno, quello del 2010 e quello del 2012, quello degli anni pari, che sono stati veramente persi anche per colpa della sfortuna, perché nel 2010 non dimentichiamoci che Fernando è arrivato all'ultima gara ad Abu Dhabi ed era in testa al mondiale e gli sarebbe stato sufficiente rimanere in pista. Ci fu quel clamoroso errore commesso dal muretto, in realtà soprattutto dall'ingegnere di macchina all'epoca di Fernando, che non valutò la posizione di Vettel, che era in quel momento in testa, e fece la corsa su Webber e non capì che Webber si stava rientrando al box non per partizione, ma perché aveva timore di aver bucato una gomma, e lì è stato via forse il più clamoroso dei titoli. Ma anche nel 2012, se vogliamo ben vedere, dopo una partenza sofferta, una macchina veramente nata male, che però erano riusciti un po' tutti a ribaltare, come dire, dal gran lavoro di Fernando, e in questo è fantastico. Ecco, si era arrivati alla seconda parte della stagione con una Red Bull in perentoria rimonta, ma con una Ferrari che, se non avesse avuto il tamponamento di Spa su Alonso e poi quello di Raikkonen, che era all'epoca la Lotus, sempre su Fernando, a Suzuka, sì, avrebbe aritmeticamente vinto il mondiale. Certo. E anche all'ultima gara, non dimentichiamoci che Sebastian Vettel si girò in partenza e ebbe la clamorosa fortuna di non andare a sbattere e di interrompere lì la sua gara. La Formula 1 è sport, quindi quindi ci stanno anche questi fattori. Negli ultimi anni la Ferrari ha lavorato male, questo è oggettivo, e ha avuto delle discrete botte di sfiga, e questo è altrettanto oggettivo. Flavio, ti chiedo un istante di pazienza per il traffico e poi continuiamo a parlare di questo argomento anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Della corsa di ieri, che è passata sullo sfondo, che è stata in qualche modo una brutta gara, la sagra dell'errore, con il solito risultato a parti invertite stavolta, i due della Mercedes davanti, primo Hamilton, secondo Rosberg. Tutti convocati. No, nessun cambiamento. Penso che oggi la gara poteva essere, vediamo, forte sesto. Quando abbiamo uscito dal pit stop abbiamo visto che eravamo dietro al gruppo, abbiamo mollato 3 o 4 secondi per allontanarsi dall'area libera, per salvare un po' le gomme e attaccare alla fine. Quindi penso che un po' di chance avevamo, ma fare sesto oggi, nonno, un ritiro, non cambia le mie idee di futuro, il mio desiderio di vincere, e speriamo di riuscire più presto. Questo era Fernando Alonso. Io ho diversi messaggi: sono cicli, che sofferenza, il problema è che non puoi quotare la Ferrari con questi piazzamenti. Marchionne prende Briatore secondo Nico, questa mi sembra un'ipotesi bizzarra. Flavio Vanetti? Ma sì, io non credo. Bizzarro. Cioè, Flavio secondo me sarebbe perfetto per certi aspetti, però non ho evidenza che possa accadere questo, anche perché dimentichiamoci che Briatore è molto legato a Montezemolo e forse non accetterebbe di fare uno sgarro, un dispetto, anche se poi se è la causa magari superiore e anche la motivazione di ridare lustro e vittoria alla Ferrari. Però non credo che questo capiti. Flavio Briatore ce l'ha proprio detto nel paddock di Monza, che comunque lui in questo momento si sente ancora lontano da questo problema, secondo me fosse un capitolo chiuso. Sì. No, tu dicevi prima la Formula 1 è sport, ci sono diversi fattori. Mi sembra che alla Ferrari si stia cercando di risolvere una situazione di problematiche stagnanti, prima cambiando, banalizziamo, il commissario tecnico, cioè Domenicali, è arrivato Mattiacci, adesso cambiando il presidente Montezemolo, arriverà non so chi. Però la Formula 1 non è neanche il calcio, non so se questa sia la strada per risolvere i problemi e non so dove stiano annidati questi problemi. Ma io direi che da anni la Ferrari sta sempre inseguendo un qualcosa. Il suo errore, se vogliamo, così nella programmazione, è stato forse quello magari di essere un po' meno creativa e di stare un po' a seguire quello che facevano gli altri, segnatamente a Red Bull ultimamente. però purtroppo arrivando a copiare, mai mettendo qualcosa di veramente innovativo. E quando l'ha fatto, ad esempio quest'anno, la macchina per certi aspetti ha delle caratteristiche anche estreme, però forse quest'anno serviva una macchina diversa, quindi hanno percorso sempre con un giro dopo questa strada dell'aggiornamento, dell'essere in pari. Ecco, è giunto il momento che la Ferrari debba, secondo me, trovare una chiave per fare qualcosa di veramente nuovo, innovativo, di essere lei un po' la locomotiva di qualcosa che gli altri al limite devono imitare. Questo è stato forse in sintesi la colpa di questi anni, forse sono state sbagliate anche delle persone, probabilmente è stata sbagliata la formazione in qualche caso, se non sono state le persone giuste al posto giusto. Però è anche vero quello che dici tu, qua le bacchette magiche non ha nessuno, adesso si sente dire che Mattiace potrebbe perdere anche lui questo incarico, ma no, a parte che non ci credo, e sarebbe comunque la più grande delle fesserie, perché come puoi pensare che una persona arrivata ad aprile è paracadutata dall'altra parte del mondo, tra l'altro dove faceva altre cose sempre per la Ferrari, ma in un settore che ovviamente certo. possa dalla sera alla mattina o in 4-5 mesi trovare la ricetta vincente quando per anni non è stata trovata. Quindi credo che quella sia la posizione più blindata, ripeto, a meno di follie che mi sentirei però di escludere. Sì. Comunque qualcosa va fatto sicuramente, adesso vediamo anche cosa succederà sul fronte dei piloti, c'è sempre questa turbolenza, vedere anche Alonso come reagirà a questo scenario un po' di cambiamenti, vedere se si sentirà ancora garantito che i suoi propositi di avere una macchina vincente. Diciamo certo. che le parole di Marchionne sembrano confortarlo, però poi bisogna passare dalla teoria ai fatti. No, ma poi per lui è il momento decisivo, insomma, o decide di immolare quel che resta della sua carriera dopo averlo fatto per molti anni, probabilmente gli anni migliori della sua carriera, ad una macchina che ancora non, e ad una scuderia che è in pieno casino, in questo momento dovrà valutare se farlo oppure andare da un'altra parte. Il problema è che il mercato dei piloti mi sembra piuttosto bloccato. Un'ultima considerazione, Flavio, invece sulla corsa che abbiamo visto, Guerra in famiglia, il titolo del tuo pezzo di apertura sul Corriere della Sera di oggi, Guerra in famiglia, ma neanche poi tanto. Mi ho visto tanti errori in famiglia tra Rosberg ed Hamilton, dopo quello che era successo nell'ultima gara. Magari qualcuno si aspettava un bel duello rusticano corpo a corpo, invece due piloti un po' intimoriti dalla situazione, forse con errori prima di uno poi dell'altro eccetera, ma soprattutto stati due errori di Rosa, di cui il secondo decisivo perché ha permesso appunto a Lewis di scavalcarlo. E come ho scritto, secondo me questa è un po' la prova che in condizioni di stress forse Nico ha qualcosa di meno di Lewis. Poi sicuramente è una guerra che rimane, nel senso di un confronto interno. Ieri è stata un po' meno guerra sotto altri aspetti, cioè sotto l'aspetto delle parole, c'è stata una frase abbastanza, come dire, rilassata di Lewis, che ha contestato, anche criticato i nuovi boo che sono stati fatti a Rosberg dalla platea. E questo è stato un bel gesto. Poi però a domanda di Gianna Lesi, allora siete amici? Lui ha detto siamo compagni di squadra, come certo. per sottolineare quella leggera differenza che insomma è inevitabile che ci sia. Vedremo, sicuramente è chiaro che è una lotta ancora aperta. Lewis ha dimostrato ieri che è un gran pilota e che comunque riesce anche nel rispetto delle regole a fare una cosa di testa sua. Sì. L'ingegnere gli aveva detto stai a 2-2 secondi e mezzo per attaccare il finale, lui ha detto no, vado, perché l'esperienza mi insegna che non è una cosa da fare. E non è anche la prima volta che fa di testa sua, secondo me va benissimo, perché infatti, i piloti di grande personalità fanno così. Poi c'è tutta la dietrologia secondo cui, molto diffusa in questo momento come pensiero in Italia, secondo cui sia stato una sorta di risarcimento di quanto è successo, di quanto non è successo, credo, ma non lo credo neanche a questo livello così, è troppo smaccato. E secondo me c'è un errore evidente proprio di Nico, che è andato due volte lungo nello stesso punto, quindi era effettivamente la prima volta magari è stato proprio un errore mai di, come dire, di valutazione della frenata. Secondo me nel secondo c'era un po' più di pressione di tensione, l'altro stava arrivando. Grazie Flavio, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera, ascoltatori 80024 0024, numero verde con Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in redazione, in regia, Claudio Schiattone in redazione, sbaglio tutte le volte. aggiungendo: quello che dovevo dire l'ho detto, spero, in maniera chiara. Se però poi ci fossero qualunque tipo di novità, sappiate che il primo, quando mai ci dovessero essere, a dirlo sarei io, quindi personalmente. Perché volevo dirti che io sono arrivato alla conclusione che, avendo un anno sabbatico, Antonio Conte potrebbe dare una mano a noi della Ferrari. È un grandissimo motivatore. Io vorrei suggerire questa idea a Marco Mattiacci. Idea che ancora, insomma, che ancora circola, un messaggio SMS: ma la Ferrari prende Conte? Sì, prenderà Antonio Conte. Simone, provincia di Verona, buongiorno. Sì, salve, convocato per la Formula 1, in particolare sulla situazione che sto vedendo della Ferrari. Sì. Seguo la Formula 1 dal 1989, per cui ho un po' di anni sulle spalle di diverse vicissitudini riguardanti la Formula 1. Mi sembra che la Ferrari stia lentamente scivolando a quella che era la Ferrari dei primi anni 90, cioè che si vinceva poco, si gestiva male la squadra, si cambiavano spesso tecnici, direttori, sì. E fino a quando non c'è stato veramente un punto di svolta, mi ricordo quando viene ingaggiato prima Montezemolo, poi Gian Todt, e piano piano si viene a costruire una squadra che ha dominato in lungo e in largo. Allora dico, non vorrei che la Ferrari nei corsi e ricorsi storici ripetesse l'errore che le è costato caro negli anni 90. No? Beh, ma d'altra parte appunto sono corsi e ricorsi storici, la Ferrari si trova in quella situazione, ormai sono molti anni che non vince, e le ha fatto bene a ricordare come la svolta fu l'avvento di Montezemolo, che scelse poi gli uomini giusti, Todd e Schumacher, per riaprire un ciclo vincente. Molti errori sono stati fatti. Adesso la sensazione mia è che si proceda un po' alla cieca, questa è la sensazione che ho dall'esterno, che non ci sia un piano così preciso. Si capisce quali sono gli uomini che non vanno più bene, ma non è chiaro da quale punto di vista ripartire. Stefano Padova, buongiorno. Buongiorno, anch'io sono un tifoso di Formula 1 di vecchia data, perché seguo da prima del 1989, sì. Come diceva prima l'ascoltatore precedente. Secondo me, come diceva giustamente lei, non è come nel calcio che si cambia un allenatore, un presidente. Qui per rifare una macchina competitiva ci vorranno anni, perché ci vogliono anni per... E il tempo non c'è in queste situazioni. L'errore che ha fatto Montezemolo è stato quello di non usare il potere che ha la Ferrari, nel senso, ha accettato supinamente delle regole che non andavano bene. Quando Button vinse il suo mondiale con una macchina palesemente fuori regola, lui accettò, schierando la macchina l'anno dopo, Montezemolo, quando io al suo posto avrei pagato una pesantissima penale, per aver ritirato la squadra, facendo un danno enorme alla Formula 1. Sì, ipotesi che era anche circolata, ma probabilmente a monte l'uomo chiave dei successi del Ferrari, non probabilmente, era Jean Todt, che era uno che da questo punto di vista non aveva mezze misure, insomma. Stefano, da saluto, ho la borsa. Paolo da Vicenza, stia lì, ci sentiamo subito dopo i mercati finanziari. E arriva anche Paolo, Lewis Hamilton, che mentre gli altri iniziano l'ultimo giro, lui lo va a concludere da vincitore. Seconda vittoria a Monza, vittoria straordinaria, rimonta per Lewis Hamilton. Non c'è stato il corpo a corpo con Rosberg per l'errore di Nico Rosberg, che resta ovviamente leader del mondiale, e arriva sul podio anche Felipe Massa. E sentite in sottofondo, lo accompagna il boato del pubblico. Tutti convocati. Sì, no, presidente, però allora c'ha ragione De Laurentiis, perché se è Sasti allora lei mi dice così. Però se no non ci andiamo sul questo. Prego? No, dico, allora ha ragione De Laurentiis su quello che dice. Come che dice? Che lei allora a quel punto c'è quel discorso del susti, perché se no non sussiste. Allora, se c'è discorso, parliamone, altrimenti no. Preziosi avrebbe venduto il Genoa a un imprenditore, all'imprenditore Ferrero? Mai. Io personalmente a pelle dico mai. sicuramente avrei fatto io per quanto riguarda il Genoa, se dovessi lasciarlo cercherò di lasciarlo così, con una trattativa che possa essere anche interessare tutti, e dopodiché capire anche se questa persona può essere di gradimento della tifoseria. Magari è il più bravo del mondo, io non voglio assolutamente mettere le lingua in quello che fanno gli altri, io dico che se dovessi farlo lo farei con un pochettino, con una modalità diversa. E non sarà un brutto derby quello della lanterna nemmeno in tribuna tra Preziosi e Ferrero. Paolo da Vicenza, buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Allora, io volevo allacciarmi al discorso lanciato dagli altri due ascoltatori di primo sulla Formula 1. Mm-hmm. Volevo dire che tutti dimenticano il fatto che la Ferrari ha fatto scelte sbagliate comunque negli anni, perché questa situazione attuale è frutto anche del licenziamento di Aldo Costa. Aldo Costa è andato via dalla Ferrari, ha iniziato a far vincere la Mercedes. Sì, o Ross Brown magari. Sì, però Ross Brown, diciamo, lui non era proprio del tutto pulito, come ricordava gli ascoltatori di prima, con la storia del campionato vinto da Baton. Beh, anche Todd era uno che aveva non sto parlando di pulizia o mancata pulizia, anche Todd era uno che aveva tanto pelo sullo stomaco, no? Sì. Nella gestione della situazione, e mi viene da dire che ad alto livello, per vincere eccetera, serve quello, ci vuole anche quello. Sì, certo. Il fatto è che dopo anche tutto questo è dovuto anche a un regolamento fatto da una federazione che ormai pare l'unico scopo abbia sia quello di rovinare la Formula 1. Ah, anche di fare del grano. Scopo è quello di fare dei soldi e poi vediamo come. Ma d'altra parte ieri sentivo ancora Montezemolo dire, o l'altro ieri dire, non ha senso non poter sviluppare la macchina, non ha senso non poter toccare il motore per tutta la stagione. In effetti sono tutte delle limitazioni che di senso ne hanno poco. Questo regolamento non piace a nessuno, però non ho mai avvertito una reale voglia o possibilità di fare un'autentica rivoluzione. Dunque vediamo cosa succede alla Ferrari. È chiaro che ed è evidente a tutti come le vittorie dell'epoca Schumacher avessero come padre Montezemolo e quelli che lui aveva scelto, cioè Todd, Ross Brown e Michael Schumacher. Pallone verticale per Rossi, in 10 Portogallo, da lì è fuori, prova uno contro uno, salta secco a Riccardo Costa, il cross in aria per Balai. Gianni De Biasi è un amico, io sono molto contento. Pardo, glieli fai tu le le congratulazioni? Li ho fatti oggi su Twitter, approfitto per farglieli così in forma mezza privata, mezza pubblica, ma insomma, sentiamolo, come va? Come ci si sente il giorno dopo? Ciao Pierluigi, tutto bene, ma un po' la voce, ma per il resto è come quando tu fai le tue cronache al fulmicotone, quindi resti senza voce. Beh, Gianni, grande risultato, vincere lì, sul campo del Portogallo, diranno non c'era Cristiano Ronaldo ma fa poca differenza, uno dei successi più importanti della storia del calcio albanese, fa piacere sia firmato, griffato da un italiano. Sì, fa piacere perché questo movimento calcistico chiaramente ha bisogno di risultati per credere nel lavoro che si sta portando avanti, e aver vinto in Portogallo, dicevi giustamente, mancava Cristiano Ronaldo, per noi è stata una grandissima fortuna non averlo contro, però il Portogallo è pur sempre una squadra all'undicesimo posto nel ranking FIFA e CRIN, quindi gode sicuramente di qualità superiore alle nostre. Sì, Pierluigi si lamenta della scarsità del personale in Italia, Gianni De Biasi ha qualche problema in più dal punto di vista del personale, eh? No, fra l'altro credo che Gianni lo potrà confermare pur essendo modesto, però insomma viene già da un'esperienza comunque positiva con l'Albania negli ultimi due anni, perché insomma, l'Albania ha già fatto la storia nelle ultime due stagioni, avvicinandosi all'obiettivo poi non raggiunto della qualificazione ai mondiali, però insomma facendo un buon girone. Ci fai una, ci ricordi com'è andata? Ma è andata benissimo nella prima parte, Pier, abbiamo fatto il secondo posto nel girone di qualificazione, nel girone andata. Nel girone di ritorno abbiamo avuto qualche difficoltà e siamo praticamente scesi decisamente in classifica. Però quello che volevo ricordare è che ieri ero proprio con te a Praga quando ti parlai dell'Albania e che stavo decidendo se andare o meno, ti ricordi? È vero, mi ricordo benissimo. Quindi vuol dire che porto fortuna, in pratica, questo vuoi dare dei meriti? Io sono disponibile, sono anche a noleggio, posso accompagno in maniera gratuita persone che mi stanno simpatiche per avere botte di fortuna, di meriti, perché questa resta una domanda, insomma, in questo momento. Voglio dire, una grande panchina italiana, una media panchina italiana ti potrebbe attirare, sei completamente concentrato sull'obiettivo. Sono concentratissimo, Pier, su questo obiettivo, anche perché è un obiettivo importante ma difficilissimo. Noi siamo in un girone di grandissima difficoltà, oltre a Portogallo abbiamo Danimarca, abbiamo la Serbia, abbiamo l'Armenia, che sicuramente l'Italia conosce perché è stata messa in difficoltà parecchio nell'ultima qualificazione mondiale. Senti, che giocatori stai trovando al di là di questo che ieri sera dello Slavia Praga che ha fatto un gol straordinario? Un gruppo di giocatori con grande motivazione, che pensa veramente di dar tutto in campo, che sono concentratissimi sull'obiettivo. Magari avremo qualche qualità in meno di qualche grande squadra, però io sono convinto che quando si gioca compatti, con la determinazione giusta e credendo nel lavoro che si fa, credo che sia uno dei presupposti per cercare di far bene. Sì, adesso il macro argomento in Italia è questo refrain del devono giocare i giovani giocatori italiani nel campionato italiano, non trovano spazio eccetera. Tu ovviamente i tuoi preferisci vederli giocare all'estero perché crescono. Io non sono neanche contrario nel vedere i nostri giovani giocatori italiani giocare all'estero, continuo a pensare che il modello ideale di sviluppo di un club per l'Italia sia quello di un club che tu hai attraversato peraltro, cioè quello dell'Udinese. Io dico, in Serie A devono giocare quelli bravi, non mi importa tanto se sono italiani o no. Bravissima. Sono d'accordo, ma se ti ricordi che quando siamo usciti dal Mondiale quest'estate abbiamo aperto un discorso su secondo me l'atteggiamento che dobbiamo cambiare noi, dobbiamo avere più voglia di correre, di far fatica, di essere un po' meno personaggi, di pensare alla sostanza delle cose. Io credo che se non ritroviamo la voglia di andare al campo e di divertirci per il lavoro che facciamo, dovremmo baciarci i gomiti per il lavoro che facciamo, visti i tempi che corrono e per poi quello che ti dà come ritorno. Sì. E invece sembra sempre che abbiamo un sacco da 50 kg sulle spalle da portare. Questa è la cosa veramente che mi lascia allibito e vedo dalle altre parti, nelle altre realtà, c'è un altro entusiasmo, c'è un'altra voglia di fare le cose. E anche un'altra disponibilità ad andare all'estero, Pierluigi. No, ma devo dire che ho avuto la fortuna e ho la fortuna ogni tanto di fare delle cronache con Gianni, quindi questo entusiasmo e questa felicità, che per me è un concetto fondamentale proprio della vita, non soltanto del lavoro, l'ho vista applicata a lui, nei suoi comportamenti, mi fa molto piacere che riesca in qualche modo a trasferirla ai giocatori, ma questa è assolutamente una chiave fondamentale, no? Lo stress è un concetto molto astratto. La verità è che devi trovare un senso, come canta Vasco, alle cose che fai, soprattutto quando sono cose poi complessivamente molto divertenti e molto ben pagate. Ti piace l'esordio di Conte, come ha iniziato tantissimo, ho visto il risultato, non ho visto la partita perché ero all'estero e non ho avuto la possibilità, però sicuramente è stato l'entusiasmo che fa parte della sua persona. È stato probabilmente aiutato a trovare il vantaggio immediatamente da quello che leggo. Questo credo che lui sappia motivare nella maniera giusta i ragazzi. Poi ha la possibilità di scegliersi molti dei ragazzi che lui ha allenato per 3 anni e credo che questo sia un vantaggio enorme anche nella pianificazione del lavoro sotto l'aspetto tattico. Un'ultima cosa, Gianni, tra i ragazzi che ha allenato negli ultimi 3 anni c'è uno che il ragazzo non è più, Pirlo, ha detto, sto vedendo in questo momento per caso in un'intervista televisiva sulla Rai, ha detto torno, sono a disposizione. Prima del mondiale aveva detto no, non gioco più, non mi piace tantissimo questo questo cambiamento di rotta, non mi piacciono tantissimo le retromarcia. Sai, un po' dipende da... Ti sento più, Gianni. Credo che lui abbia scelto magari di ripensarci per questo motivo. Beh, comunque io Pirlo lo aspetto, poi sono d'accordo con te. No, ma la retromarcia non è mai una cosa bella, però insomma io di fronte al talento posso anche accettare che abbia avuto un ripensamento. Sì, ma c'è ancora una questione di anagrafe, Pier. Sì, ma infatti poi Conte non credo che non abbia gli attributi e la personalità eventualmente per preferirgli Verratti, se dovesse rendersi conto, o qualcun altro se dovesse rendersi conto che in questi due anni c'è qualcuno che gioca meglio di lui. Però in generale, insomma, fermarmi al fatto che nella rabbia di quella partita con l'Uruguay avesse in qualche modo programmato il cessato il gioco, se ti piace il cessato il gioco, ecco. Sì. Insomma, alla fine, secondo me, uno come Pirlo, se ha voglia e se è motivato, conviene a tutti aspettarlo. Grazie Gianni. Grazie a voi. Grazie. Dai con l'Albania. Dai. 800 24 0024, Pierluigi, stai lì. Ci sono un sacco di chiacchiere da lunedì senza campionato da fare. Interessante. Penso di finire dopo il mondiale, anche perché ho una certa età e c'è bisogno di dare spazio anche a altri, quindi sarebbe inutile continuare. E poi, se dopo, in caso di bisogno, non ci sarebbe nessun problema, anche perché se vengo in nazionale non gioco, mi incazzo, quindi è meglio stare a casa. Convocati. Com'è via del Casaletto a Roma? Non lo so, via del Casaletto sono abbastanza... Ti manca? Mi manca, credo che sia roba trionfale, eh? Non so se gioierà a te, non lo so, che romano, che romano veramente del genere che è stato. Poi conosco invece Buccinasco, no, però stavo proprio invece riflettendo sul... Sono in un posto a Roma vicino a Viale Trastevere, dove proprio c'è questo mix della nobiltà e la Roma patrizia e plebea, no? Popolare e nobile. Non so perché sto dicendo sta cosa. No, non lo so, mi sto perdendo pure io. Sì, no. Ma anch'io mi sono perso. Comunque tutti a via del Casaletto, via. Tutti via del Casaletto, quantomeno per vedere com'è la situazione del traffico. No, abbiamo sentito prima Pirlo dire, dopo il mondiale, vabbè, rinuncio, smetto, la pianto qui, perché sennò poi se vengo convocato in un gioco mi incazzo. Credo che non abbia cambiato il suo pensiero su questo punto. Ha cambiato invece il suo pensiero per quanto riguarda la sua eleggibilità. Ho fatto una chiacchierata col mister, mi ha chiesto la disponibilità di tornare, gliel'ho data e quindi speriamo di esserci al prossimo raduno. Era una decisione difficile, volevo smettere con la nazionale, poi è arrivato il mister e mi ha chiesto di potergli dare una mano, lo faccio... contento di poterlo fare e speriamo che possa aiutare a fare qualcosa di buono. Che una traduzione può anche essere: se c'era quell'altro mister, quello che è andato via, non giocavo più. Sì, oppure ma lui in realtà, guarda, l'aveva già la giravolta l'aveva fatta rapidamente, ancora prima del primo scontro. Lui ha avuto uno sfogo nel finale di Italia-Uruguay, ma poi già due o tre giorni dopo si era chiarito che era eventualmente disponibile a tornare indietro. Io penso sinceramente che, come ti ho detto prima, che il talento qui sia talmente tanto che rinunciare per un partito preso, per una dichiarazione a Pirlo in maniera preconcetta sarebbe sbagliato. Al tempo stesso è evidente che Pirlo, che il passato conta fino a un certo punto, no? C'è la gratitudine, per carità, esiste nel calcio, ma in quel ruolo lì c'è uno come Verratti. Sì, appunto. Appunto. No, però insomma, innanzitutto non è detto che non possano giocare insieme. È un bel tema, eventualmente un bel tema tattico. Sì, poi tu sai che i maliziosi dicevano anche che i dubbi sulla convocazione di Verratti fossero proprio derivanti da un non completo gradimento, sto cercando un giro di parole ardito, da parte di Pirlo nei confronti di Verratti. Ma è chiaro che più passa il tempo e più il peso contrattuale di un giovane cresce a capito di quello di un giocatore anziano, ma ripeto, io penso che nella vita si trovano, l'allenatore è talmente è talmente bravo ed è talmente, secondo me, al di sopra di qualsiasi sospetto dal punto di vista dei rapporti, che ecco, pensare a Conte che fa giocare, faccio per dire, Pirlo, non per Verratti, per amicizia, io non, ma potrò, no, per amicizia no. Ecco, no, amicizia non credo proprio, dai, ci sono valutazioni, ci sono valutazioni di carattere tecnico e tattico, c'è anche chi dice in realtà che Conte deve cambiare qualcosa nel centrocampo della Juve, quindi non è così detto che alla fine Pirlo debba avere delle vie preferenziali. Io penso che sia buono che Pirlo abbia dato la disponibilità, perché è una grande risorsa per la nazionale. E poi mi fido di Conte. Di Conte è chiaro che più passa il tempo e più Verratti e i giovani ci auguriamo che possano mettere in difficoltà Pirlo. E portarlo a giocare, stimolare una sana concorrenza. Siamo su sponde diverse, su versanti diversi, io e te, ma questo è normale. Vediamo cosa ne pensano gli ascoltatori, cioè per quanto a Pirlo io avrei chiuso il discorso sia dal punto di vista di Pirlo che da quello di Conte, potendo o volendo. Perché indietro non si torna, perché comunque sarà un giocatore anche pesante dal punto di vista, importante come voce nello spogliatoio. Quando si riparte, meglio avere voci nuove, diverse in ogni spogliatoio. Questo è quello che penso io. Poi ti chiedo anche di Chiellini, che secondo me è una vicenda abbastanza sopravvalutata. Tra l'altro Tavecchio ha detto che non c'è stata nessuna incomprensione con la Juventus sul caso Chiellini, non ci sono problemi tra la nazionale e la Juve, non si è trattato di uno sgarbo a Conte questa storia di Chiellini, che Conte si voleva tenere anche infortunato e che la Juventus ha richiamato a casa. Antonio, buongiorno. Salve, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Senta, io volevo affrontare solo un aspetto che tocca sia la nazionale che i settori giovanili. Intanto la nazionale evidentemente ha bisogno di un serbatoio di giocatori che crescano e che abbiano la possibilità di giocare in squadre, che possano affrontare anche in ambito proprio di squadra, diciamo di club, ambiti internazionali. E mi collego al fatto che un giocatore come Zaza, che è 3 anni che sta giocando bene, anche se non è provinciale, non riesca ancora, forse la visibilità della nazionale gli permetterà di arrivare a un grande club, non riesca ad arrivare a un grande club. La seconda cosa, i settori giovanili. E in tutti i paesi che stanno emergendo nel calcio, Germania e Inghilterra, hanno fatto un lavoro in profondità sui settori giovanili. In Italia ancora i ragazzi giovani, 13-14 anni, se devono arrivare in un club costano moltissimo. A 16 anni gli devi fare il contratto, perché sennò vanno via gratis. Il contratto non può essere per più di 3 anni e quindi fino a 20, non riesce a proteggerli fino a 20, perché poi devi fare un nuovo contratto, entrano in ballo i procuratori e i club spendono un mucchio di soldi su queste che sono sostanzialmente delle scommesse. I problemi sono certamente strutturali, in Italia li abbiamo, li hanno anche in Argentina e in Brasile. Il mondiale è stato diverso di Argentina e Brasile, l'ultimo, però ad esempio la squadra finalista è da anni un paese solo esportatore di giocatori. Carlo, io penso, per me il problema del calcio italiano è un problema di business. Io vedo un'inferiorità pesante rispetto ai top club e dal punto di vista dei fatturati. Dal punto di vista tecnico, insomma, a me se ieri c'era nell'edizione domenicale c'era Marocchi collegato con noi, io sono d'accordo con lui, cioè secondo me noi non siamo in questo momento il paese che domina ovviamente il calcio mondiale, ma non siamo neanche quelli visti in Brasile. Ma siamo certamente, una buona squadra, ma certo. Dal punto di vista degli anziani abbiamo ancora dei buoni giocatori, dal punto di vista dei giovani qualche possibilità ce l'abbiamo, non vedo la calma. Alla fine, Pier, il mondiale, l'europeo sono dei meravigliosi tornei notturni, le nazionali hanno in sé qualcosa di meravigliosamente anacronistico, no? Sono dei tornei in cui ti giochi dentro fuori tutte le sere e certe volte può andarti bene, come è andato bene in Polonia, certe volte ti va male o malissimo, come è andato in Brasile, o peggio ancora, come è andato in Sudafrica. Poi si fanno dei discorsi epocali. Io non vedo una così orrenda generazione di giocatori, penso a Verratti, De Ciglio, a quelli che verranno, non mi sembra proprio così tutti degli sfigati. Il vero problema è che il nostro calcio di vertice non ha quattrini per essere competitivo, certo, con il calcio di vertice degli altri. Il problema è Belinazzo, non lui. Belinazzo è il problema è quello di cui parla Belinazzo, è un problema, certo, proprio di conto industriale del calcio, sì, lo dico a Radio 24, cioè riuscire a raddoppiare o a fare indice più 30%, 40%, 50% dei nostri fatturati, quindi vendere meglio i diritti televisivi all'estero, fare una legge seria contro la contraffazione, lo so che è impopolare perché è brutto andare dal tifoso che magari si è comprato la maglia tarocca a 15 euro, non è che lo puoi mettere in carcere o gli puoi confiscare la maglia, però fino a quando avremo i negozietti tarocchi fuori dagli stadi, con tutto rispetto per l'indotto e per la gente che ci lavora, quelle sono opportunità perse, non è che sì, ma dai, ma poi se avessimo ancora Berlusconi e Moratti che mettono un sacco di quattrini nel Milan, nell'Inter, o ci fossero gli Agnelli che mettono ancora palati di quattrini a Juventus e prendono Platini e Bognac, insomma, secondo me le locomotive del calcio italiano non hanno più, per ragioni economiche, contingenti e per colpa di Belinazzo, i soldi da spendere per comprare l'argenteria a livello mondiale, quindi può essere una banalizzazione questa, però nel 2010, che non è un secolo fa, l'Inter vinceva tutto. Ma certo, questo è. Senti, su Chiellini, in un minuto, su Chiellini, poi ne parliamo dopo il GR. Su Chiellini, come la pensi su questa vicenda di Chiellini? Penso che in questi giorni qui siamo tutti in difficoltà a dover vendere i giornali, a fare audio per le trasmissioni sportive perché c'è la pausa. Bravo, e bravo, quindi giustamente, bravo, però un elemento oggettivo c'è. Attenzione, viene il Casaletto 35, non posso dire, sono vicino a dire il Casaletto, va bene. Sulla Portuensi. Sì, infatti, Portuensi, boccia, vabbè. Ti stavo dicendo, detto questo, per carità, c'è stato la notizia del crimine, c'è. Nel senso, comunque qualcosa è successo, non è che non è successo nulla, è successo secondo me che Conte, che chiaramente è un martello da questo punto di vista molto di più di chi l'ha preceduto, ha cercato di forzare le norme dal suo punto di vista e dal punto di vista dei tifosi della nazionale in maniera assolutamente rispettabile e anche quasi bella, nel senso che dal punto di vista del tifoso della nazionale, perché no? Chiellini fa gruppo, viene in Norvegia. Senti, parliamone dopo il GR, che sennò i ragazzi si arrabbiano. Tutti convocati. Check away, say move in front of us. Sano qua vaca, and wine me dente. Su giagella. Bravo sinistro! Del palo incredibile! Effetti deleteri di una domenica senza campionato, di Luigi Pardo. La sai quella di Asamoah Gyan? Non ho capito. La sai quella di Asamoah Gyan e del rapper Castro? No. Te la racconto io. Vai. Rapper Castro, che è il 50 Cent del Ghana. Allora, rapper Castro muore disgraziatamente in un incidente con una moto d'acqua. Dopo Uganda-Ghana 1-1, irruzione nel ritiro del Ghana di un gruppo di persone non meglio identificate che chiedono la restituzione del corpo del rapper Castro, perché secondo loro sarebbe stato sacrificato in un rituale religioso proprio da Asamoah Gyan. Effetti deleteri senza pallone. Poi c'è quella di Maicon, che questa la sai. Mai comandato a casa dal Brasile? Questa la so e vabbè. Non mi sento di raccontare i dettagli di questa vicenda. Confesso candidamente di non avere il coraggio di raccontare i motivi, cioè come sono andate le cose. Ci limitiamo a dire che è per un problema interno di natura disciplinare, poi i dettagli li trovate su internet se volete. Sì. C'è anche quella dell'invasione dei vermi dell'Old Trafford, la sai? Mi è andata via la linea, è un momento duro, ero tanto felice. Situazione dei vermi. Dei vermi all'Old Trafford. Cioè questo, il Manchester United sta facendo una fatica pazzesca. adesso c'è questa invasione di pericolosissimi vermi sul terreno del Trafford, impossibili da eliminare se non con un antico rimedio. L'intero prato dell'Old Trafford è stato spruzzato con uno spray all'aglio. Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. E tra le fesserie ricordiamo anche che Blatter si è candidato per il quinto mandato. Sì. E facciamo il tifo per lui, o no? Il ruolo gli piace, no, Falcao che finisce a giocare in mezzo ai vermi. È tanta roba. Il riferimento top dell'estate per andare a giocare in mezzo ai vermi. Ma... Ascoltami, no, ma sono tutte confermate queste notizie. Cioè, non è che se le ha inventate, no, Piantanita, che pure ha una grande fantasia. Cosa ne pensi invece della storia di Platini Ribéry? Con Platini che dice: se non risponde alla convocazione della nazionale francese verrà squalificato per 2-3 giornate, non ricordo neanche nel club. Ma scusa, ma Platini non è il presidente dell'UEFA? Sì, infatti, no, è la sostanza può essere anche giusta, però ecco. Ma com'è giusta? È presidente dell'UEFA, non è presidente nazionale della federazione francese. Sostanza, voglio dire, cioè del merito si può anche essere d'accordo, insomma, però è la voce che è chiaramente di chi non dovrebbe dare valutazioni di questo tipo, se non puramente dal punto di vista personale con gli amici al bar. Quindi sì, francamente faccio fatica a pensare che Platini sia la persona giusta per poter dare un giudizio definitivo su questa vicenda. Sì, non so neanche fino a che punto abbia voce in capitolo. D'altra parte lo stesso Deschamps ha detto: ma se Ribéry non vuole venire in nazionale, ha i suoi problemi eccetera eccetera, ma perché io dovrei convocarlo? E la posizione giusta mi sembra quella di Deschamps. È chiaro che è un giocatore importante, però tutto sta nel mettersi d'accordo. Qui possiamo tornare anche alla vicenda Chiellini. Allora, come stai? Vuoi venire? Preferisci stare lì a curarti? Mettiamoci d'accordo senza fare troppo casino e risolviamo la situazione in questo modo. No, con Pardo abbiamo dei problemi. Vediamo se riusciamo a ristabilire la linea. 800 24 00 24, numero verde. Intanto vi racconto anche delle altre cose. Vi do un appuntamento per domani mattina, Mix 24, la storia alle 10, si parlerà di Walter Bonatti, che è un grandissimo, che non c'entra con il calcio ma con la montagna. Ma soprattutto voglio raccontarvi altre tre cosine. Beh, una è cronaca, la trovate sui giornali di oggi, ha visto protagonista il famoso fratello di Balotelli, Enoch, suo compagno di scorribande, che gioca nella squadra bresciana della Valle Camonica in eccellenza. Ebbene, ieri è stato oggetto di pesanti insulti razzisti da parte dei tifosi del Darfo Boario. Gli agenti della Digos di Brescia stamattina sono stati nella sede del Darfo Boario per acquisire materiale dopo questi episodi di razzismo. Come sia l'acquisizione di materiale non mi è chiaro, non è facilissimo capire. Intanto, mercoledì a Roma, tornato Pierluigi. Ciao Pier. Sì, ci siamo. No, stavamo parlando del fratello di Balotelli, che adesso manca uno, c'è quell'altro, eccetera, eccetera. Ce n'è un'altra però, perché mercoledì a Roma c'è una conferenza dell'UEFA ufficiale sull'argomento razzismo ed è stato invitato a parlare, indovina chi? Tavecchio. No, Tavecchio non ci va, ha detto che non va perché non vuole creare imbarazzo. Lo tito. Ma quale Lotito? Andrea Agnelli, quello dell'opposizione. Beh sì, Andrea Agnelli diciamo che ha fatto ultimamente, la Juve si è impegnata molto, c'è stata alcune iniziative a Parigi con l'UNESCO. Da questo punto di vista la Juve è una società molto avanzata, in tutta una serie di attività di concerto con l'UEFA per combattere determinati fenomeni. Quindi è assolutamente apprezzabile. Io in questi casi penso sempre che queste sono materie talmente, talmente grosse, talmente importanti, che l'impegno va comunque bene. Cioè, delle volte uno può essere portato a pensare ma queste cose è meglio farle da soli, in privato, no? Non in generale la lotta alla violenza. Cioè, può avere un'idea nei confronti di chi fa beneficenza, faccio per dirti, che si voglia far pubblicità. Però qui la questione è talmente grossa, talmente importante, che tutte le iniziative, anche se delle volte può sembrare che siano portate alla conquista dell'applauso facile, però sì, fanno tutte bene, anche se ci può essere una componente di quel tipo, anche se ci può essere una componente anche di vantaggio per la propria immagine, però secondo me le materie sono talmente tanto importanti che va bene così. Sì, infatti in America, sai che in America invece non è che ne parlano troppo, lì fanno dei fatti. Fanno i fatti, sì, ma infatti perché il famoso presidente Donna Sterling, sì, ma ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra perché c'è un altro presidente che è quello degli Atlanta Hawks, sempre basket NBA. Si chiama Bruce Levenson. Bruce Levenson, che è stato mandato alla porta a calci nel sedere dal commissioner perché è stata trovata una mail del 2012 inviata dal presidente di Atlanta Hawks, che si lamentava del fatto che la base della tifoseria di Atlanta fosse secondo lui troppo afroamericana, scrivendo: ho osservato il palasport durante le nostre partite, il 70% degli spettatori è nero, le cheerleader sono nere, la musica è hip hop, ci sono pochi padri con figli sugli spalti, nei concerti dopo le partite organizzati per attrarre il pubblico c'è solo musica hip hop o gospel. La mia teoria, scriveva sempre Levenson nel 2012, è che la folla di neri spaventi i bianchi, che così non vengono più alle partite. Il commissioner dell'NBA Adam Silver gli ha detto: benissimo, fuori dalle palle anche tu, dovrà vendere il club. Guarda, io ti dico questo, allora ci sono due considerazioni da fare. La prima è sulla sostanza, che chiaramente è intollerabile, proprio perché il razzismo ha portato a una serie di tragedie talmente grandi che senza se e senza ma frasi del genere vanno stigmatizzate e non si discute. Poi c'è un tema, chi ha letto la Maca di Serra per esempio ieri mattina su Repubblica, sta a proposito del libro di Valéry, la sua piccola vendetta pubblica sul tradimento Hollande, no? E c'è un contesto che secondo me è un contesto pubblico e c'è un contesto che è un contesto privato, e questo vale secondo me anche per il capo dei clip, cioè comunque alla fine questa distinzione deve esistere. Un conto è la battuta di Tavecchio pronunciata in un discorso pubblico, è grave anche perché è pronunciata in un discorso pubblico. E sì, in privato uno può dire delle cose di tipo diverso. Poi certo, se io scopro che tu in privato sei il peggior razzista, in pubblico vale anche il ruolo istituzionale, no? Che ricopri, certo, all'interno della mia organizzazione. Vale molto appunto il ruolo istituzionale, però io ti dico che quello che è privato per me è privato, per cui no, ma siamo d'accordo. Così come mi danno fastidio le presenze frasi di Hollande sui poveri intentati che hanno fatto in questi giorni inorridire la Francia e non solo, per quale poi vengono rese note, non mi piace che una mail privata o comunque una conversazione privata come quella del capo dei Clippers possa portare a delle conseguenze. Sono d'accordo. Non mi piace. Due contesti diversi, poi sulla sostanza è evidente che... No, ma non piace neanche a me, però non piace neanche a me e lascia molti punti di discussione, questo perché fino a che punto è legittima ingerenza nelle private comunicazioni di qualcuno, però resta la durezza dei provvedimenti reali che vengono presi. E questa è la distanza tra questi provvedimenti e quelli che non vengono presi in Italia, dove si arriva al paradosso che Tavecchio venga in pratica processato da se stesso e ovviamente assolto, al netto del fatto che poi, sai come la penso, per quella battuta completamente sbagliata Tavecchio ha chiesto scusa e adesso mi interessa giudicare le cose che fa. Sì. Io adesso ho fatto questo fioretto che di quella cosa lì preferisco non parlarne perché perché quella roba lì ormai è agli atti. Ma stiamo parlando di altri, noi non stiamo parlando di Tavecchio, no, stiamo parlando di altri. È interessante secondo me avere questo metro di paragone. Poi secondo me in America certe volte esagerano, soprattutto perché appunto spesso bastano degli atti privati, gli atti privati diventano pubblici. Detto questo, fa abbastanza impressione. Sì. Forse c'è una via di mezzo, ecco, forse fra il nostro lassismo e la capacità e la voglia di perdonare subito tutti e di liquidare tutto come semplicemente una battuta e le drastiche ripercussioni, i drastici provvedimenti che vengono presi negli Stati Uniti, forse c'è una via di mezzo. Sì, qual è il tuo... Adesso torniamo agli ascoltatori, a Nicola da Belluno, Paolo da Verona, Giuseppe da Treviso, tra poco saluto Pardo, ma prima gli chiedo una sua opinione sull'ultima frase del presidente federale che riguarda il tema degli stranieri, e Tavecchio ha detto: sul tema degli stranieri c'è bisogno dell'aiuto del governo. Sì, in realtà oggi c'è stata questa indiscrezione raccolta da Repubblica e dalla stampa. Si parla di un tipo di provvedimento di Tavecchio che vorrebbe 4 giocatori italiani per regolamento negli 11 di qualsiasi partita di Serie A da una parte o dall'altra. C'è un modo in pratica per effettuare un provvedimento, diciamo, protezionista, aiutando quindi i giocatori italiani, senza però rincorrere in quelle sanzioni che ci sarebbero. È chiaro che tu non hai che poi proibire il mercato di giocatori stranieri. Stiamo parlando ovviamente di diritto del lavoro, quello sarebbe un protezionismo ovviamente inaccettabile. I calciatori saranno pagati tutto quello che vuoi, tantissimi soldi, ma sono lavoratori e come tali portatori di diritti, quindi non ti puoi mettere a regolamentare in maniera protezionistica tutto questo. Però probabilmente, secondo quanto raccontano Repubblica e la stampa, puoi fare quello che è interessato a vecchio, cioè puoi anche tesserare 57 che non abbiano il passaporto italiano, ma devi dare almeno 4 giocatori italiani al momento del calcio d'inizio nella distinta di una partita. Sarebbe un provvedimento forte, probabilmente di questo ha bisogno, di questo aiuto, dell'aiuto del governo ha bisogno da vecchio, anche dal punto di vista proprio di lobbying, dal punto di vista sia di regolamenti che secondo me di adesione politica. Non sarei favorevole a una soluzione di questo tipo, non mi piace. A me piacerebbe che ci si arrivasse per merito. A me, devo dire la verità, quando vedo squadre italiane che non hanno neanche un italiano negli 11, mi dispiace, romanticamente parlando, ma non è razzismo, ci mancherebbe altro. Mi dispiace perché il campionato italiano, secondo me, i nostri calciatori sono un valore, sono un tratto distintivo. Detto questo, il mercato ormai è andato in una direzione, quella della liberalizzazione assoluta. Certo, ma il mercato del lavoro in generale, non solo il mercato del lavoro sportivo. Assolutamente, io sposo pienamente la mozione gente, no? Perché è forte, quindi anche perché poi il rovescio della medaglia è che esiste anche un diritto dei nostri calciatori di farsi fortuna all'estero. Certamente. No? Se ci fosse lo stesso tipo di protezionismo al contrario, certamente. I nostri ma poi si crea, no? A parte che mi candido come presidente federale e probabilmente come presidente della FIFA sfiderò Blatter con il tuo appoggio. Questo lo dichiaro, lo dichiaro pubblicamente. Abbiamo già vinto, infatti, lo dichiaro pubblicamente da oggi, pongo la mia candidatura alla presidenza della FIFA. No, ma poi al di là di questo, che è reale, se crei un cartello di questo tipo, l'abbiamo visto in molti altri sport, che cosa succede? Che tu devi per forza far giocare 4 giocatori italiani, il prezzo dei giocatori italiani sale. Certo. Sale perché si crea un cartello e non ci sono più condizioni di libero mercato, e dunque crei un meccanismo perverso di questo tipo, per cui tu, società, devi per forza far giocare i quattrini italiani. Gli italiani bravi sono pochi e quei pochi italiani bravi costeranno un mucchio di quattrini ancora più di adesso. Quindi sì, infatti, l'abbiamo sperimentato, non sto inventando. Io ti dico, è una turbativa. A me piace, dico la mia sensazione, mi piace che ci si stia ponendo il problema. Così come mi piace che ci sia, e questa secondo me è molto più auspicabile, anche se potrebbe trovare delle potenze e delle resistenze, che ci sia l'idea di diminuire il numero delle squadre della Serie A, che secondo me non devono diventare 16, perché 16 è assurdo, ma 18 probabilmente potrebbe darci un piccolo vantaggio. E in generale, insomma, mi piace che Tavecco si stia mettendo al lavoro per fare le riforme. Questo mi piace, mi sembra da questo punto di vista che stia provando a fare delle cose che abbiamo in testa da anni. Sul discorso però dei quattro italiani vedo anch'io delle negatività da questo punto di vista. Mi piacerebbe arrivarci, ma arrivarci per merito. Bravo, arrivarci perché per merito, perché i giocatori vengono prodotti e perché non a condizioni di parità di mercato io scelgo questo perché è più bravo e quindi è lì che vorrei arrivare. Grazie Pier, ci sentiamo domani, ti abbraccio forte. Senz'altro. Fortissimo. Ciao Pardo. Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno, bentornato fra noi dopo la pausa estiva delle follie. No, siccome l'ho sentita prima durante il mondiale, l'ottimismo, tutte le follie che ha detto durante quel periodo, ma non sono riuscito a intervenire, finalmente oggi si ritorna a parlare e condivido un sacco di cose di quelle che ha detto lei, praticamente quasi tutte. Mi dica quelle che non condivide, che ci divertiamo di più. Faccio fatica perché non condivido tutte le cose che dice Pardo, cioè quando si fa un uomo ha una funzione pubblica e quella bene o male si ripercuote anche quando esprime delle opinioni assolutamente private. Sì, perché... mi piacerebbe che il governo aiutasse Tavecchio sulla questione degli italiani, ma che mettesse anche la clausola che uno come lui non può stare a capo di una FIGC, perché è una persona moralmente indegna. A proposito di nessuna ingerenza nel mondo dello sport, io sono contrario comunque all'intervento governativo nel mondo dello sport, quindi penso che abbiano molto altre cose da fare, molto più importanti, molto più urgenti, e poi non ce n'è bisogno, non vogliamo gli interventi del governo nel mondo dello sport, perché non li vogliamo, che lo sport si regoli da solo e che i club si regolino da soli e che Tavecchio pensi di dirigere la federazione nel modo migliore possibile. Su Verratti e Pirlo direi che non c'è discussione, cioè non si può ripartire da zero e ripartire da Pirlo, no, per ma quanto poi, straordinario Nicola, sia. Poi Nicola, già uno che dice nella premessa, se vengo convocato in nazionale e gioco, mi incazzo, allora non mi va bene. Perché? Perché questo cosa vuol dire? Sei un giocatore importantissimo, storico, fenomenale, l'aggettivo sceglilo tu, però entro in un gruppo con la premessa che io gioco, no? E Verratti, vediamo, perché se Verratti non mi rompe le scatole tatticamente, magari gioca, altrimenti io gioco e poi il resto lo vediamo. È chiaro che, l'ho detto l'altro giorno, Pirlo, Buffon, mi alzo in piedi e mi metto sull'attenti per quello che sono stati, che sono ancora, che è andato, eccetera, eccetera, eccetera, però nel momento in cui devi rifondare una squadra di calcio, in questo caso la nazionale, ma vale anche il discorso pari pari per l'Inter degli argentini, e hai un gruppo importante nello spogliatoio, non è una buona premessa dalla quale ripartire, perché fatalmente quel gruppo incide, è influente sulle scelte dell'allenatore, sull'opinione pubblica, eccetera eccetera eccetera. Quindi tante grazie, cerimonia d'addio, partita, ultima partita con tutti i crismi, e poi si ricomincia da un'altra parte. Questa è la mia, è quello che mi piacerebbe vedere, o questo è il mio pensiero, insomma. Convocati. Beh, come si dice sempre, la notte porta consigli, per cui se in un primo momento determinate decisioni possono far propendere per una cosa, poi magari a bocce ferme, con un po' più di calma e razionalità, magari si rivede questo modus operandi e si cambia la decisione. È normale che ero arrabbiato, perché diciamo che sono stato negli ultimi due anni sempre in nazionale con regolarità, e proprio nel momento più importante diciamo che ho saltato, ecco, un avvenimento che non so se mi ricapiterà, ecco, quindi. Questi erano, li avrete riconosciuti, Buffon su Pirlo, sul ripensamento di Pirlo nottetempo, e Giaccherini che non ha preso bene, questo lo sapevamo, l'esclusione del mondiale da parte di Brandelli. Intanto tornano a giocare metaforicamente uno contro l'altro, dopo tante sfide degli anni Ottanta, Platini e Rummenig. Di Platini si è detto prima, se Ribéry non risponderà ad eventuali convocazioni nazionali verrà squalificato con effetto nel suo club. Deschamps ha detto, ma se si è ritirato non vuol più venire, perché dovrei convocarlo? E Rummenigge ricorda al presidente dell'UEFA che l'attaccante del Bayern di Monaco aveva già parlato del suo ritiro dalla nazionale nei tempi opportuni, ne aveva già parlato con Deschamps, e ricordo a Rummenigge che tutto è stato fatto conformemente alle regole della FIFA. Dunque Ribéry ha dato l'addio alla nazionale, non ci ha ripensato a differenza di Pirlo, e Rummenigge dice, ma se questo non va più a giocare in nazionale, a me, dico la verità, piacciono i giocatori che rispondono alle convocazioni della nazionale sempre e comunque, ovviamente determinate condizioni, da questo punto di vista uno dei miei preferiti era ed è sempre stato, per l'atteggiamento nei confronti della nazionale, David Beckham, che avrebbe attraversato l'oceano a nuoto in mezzo agli squali pur di rispondere alla convocazione nazionale inglese, ovviamente se rientra in un progetto, se è funzionale, se ci possono essere delle ragioni, no? Ribéry, 31 anni, molti problemi fisici, ha detto in nazionale francese non ci vuole più giocare. Paolo da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Ecco, complimenti per l'osservazione di prima, che l'ha già fatto un paio di volte, quella che i tipi mondiali così o gli europei sono dei tornei notturni. Sì, poi qualcuno mi ha corretto, ma se giocavano alle 13, io intendo come filosofia il torneo, come on. Se ci ricordiamo, cerchiamo di capirci. No, ma se ci ricordiamo chi ha vinto la Grecia, l'europeo, quindi sì. Diciamo tutto, no? No, io diciamo tutta. Cioè, sono tornei meravigliosi, probabilmente l'essenza del calcio, o l'essenza di un certo calcio, quello che piace ancora da morire ai romantici del calcio, sono però dei meravigliosi anacronismi, perché il vero calcio oggi è quello dei club. Il calcio delle nazionali sono rappresentative, sappiamo bene qual è la vita delle nazionali, i problemi che attraversano, l'impossibilità di allenarle come squadra di club. Sto divagando, non sto dicendo delle enormi banalità, però quello che dico io è che poi facciamo dei discorsi di sistema sulla base di manifestazioni che bruciano tutto nel volgere di 3 partite, 4 partite, 5 partite. Ne indovini un paio, ed è successo all'Italia non più tardi di 2 anni fa, e sei in finale ai campionati europei, cosa che non succedeva da un millennio. Ne sbagli un paio e sei fuori dai mondiali al primo giro per la seconda volta consecutiva. Quindi è semplicemente questo che dico. Poi va bene fare discorsi di sistema, va tutto bene. L'unica cosa che io non vedo la nazionale italiana dal punto di vista della produzione dei giocatori, è chiaro, non ce ne sono molti qui. Guardate l'Inghilterra, qual è il campionato più bello, più ricco, più interessante, più guardato del mondo? Quello inglese. La nazionale inglese non combina nulla a nessuna manifestazione dalla preistoria, e questo lo sappiamo. Certamente è un problema, certamente ci sono dei problemi strutturali, certamente ci possono essere anche problemi di altra natura dovuti al fato, alle stelle, a queste situazioni. Paolo. Però appunto negli ultimi ormai decenni così, le due nazionali che hanno comunque portato sempre, sono state la ribalta e non per caso, la Spagna e adesso ultimamente la Germania. Ma perché? Perché secondo me hanno fatto un discorso un po' la va di moda la cantera, comunque a livello di settore giovanile è tutto lì un po' la differenza. Perché sia la Germania che la Spagna sono squadre che comunque negli anni hanno investito molto, e poi è un problema degli allenatori, perché possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, mettiamo i giocatori in campo, gli italiani, però se l'allenatore non ci crede, è l'allenatore che fa la squadra alla fine. Sì. Cioè. No, ma poi l'allenatore sono anche i presidenti, sono anche i presidenti, e non il presidente che cerca di gestire un club tra mille difficoltà dice: ok, quanto mi costa crescere un giocatore del settore giovanile, italiano o straniero o quello che volete, insomma, quanto mi costa produrre un giocatore? Costa, ha un costo molto elevato. Poi a 16 anni gli devi fare il contratto, perché altrimenti lo perdi istantaneamente. Gli devi fare il contratto, quindi questo va dal procuratore, arriva al procuratore, tratti il contratto che non può essere più lungo di 3 anni. Dopo 3 anni, quindi non arriva neanche a 21 anni, non è più, non può più essere protetto. Quindi alla scadenza di quel contratto oppure va via a parametro zero. Io sono presidente di un club e dico: va bene, ho questi paletti, ho queste condizioni, ho queste difficoltà, magari mi vado a prendere un argentino che ha già giocato a 20 anni, ha già giocato 10 partite nella sua nazionale, perché da quelle parti è così, e mi costa un terzo. E tu che fai? Giorgio da Firenze, che fai? Volevo tornare un momento sull'episodio del direttore, del dirigente sportivo americano, mi è sfuggito di quale sport, che è stato defenestrato. Basket americano, NBA, basket. Atlanta Hawks. Ecco, bene. Che è stato appunto defenestrato perché ha detto, cioè ha scritto in una sua mail che in un certo stadio, siccome ci sono tantissimi neri, probabilmente un po' intimoriti, i bianchi sono pochi. Ecco, non sono il primo, credo l'unico, a sapere che negli Stati Uniti vige una quasi dittatura del politicamente corretto, che tra l'altro si sta anche affermando da noi. E a orecchie non prevenute, a me sembra che questa frase possa essere semplicemente considerata un'interpretazione, poi se sapessimo maggiori dettagli potremmo valutare meglio. Quindi il rischio è che ci sia gente che vuole abolire la libertà di opinione su certi temi. L'unica cosa veramente molto grave, non è una questione mi piace o non mi piace, è che venga violata la segretezza della corrispondenza, cosa che accade regolarmente o quasi ogni giorno in Italia. Ma Giorgio, ma su questo abbiamo delle forti perplessità, perché lei conosce anche il precedente, no? Sa del precedente, cioè questo è il secondo caso nel basket americano. Il primo ormai famosissimo è quello di Donna Sterling, presidente dei Clippers, che in una telefonata alla sua fiamma, sua fidanzata, dice: non voglio tutti i tuoi amici negri alle partite perché mi danno fastidio, cose di questo tipo. Quella telefonata venne intercettata e sulla base di quella telefonata è stato costretto a vendere il suo club, e addirittura non può più mettere piede in un'arena in cui si giocano partite dell'NBA, quindi provvedimenti durissimi. È chiaro, ci possono essere, questo è l'estremismo, no? Estremismo dal punto di vista della segretezza delle conversazioni e della corrispondenza privata, da un lato. Non dimentichiamo però che sono personaggi pubblici di una lega, e fanno parte di una lega, e quindi quella lega, una volta acquisite queste prove, poi discutiamo sulla legittimità di acquisizione e valutazione di queste prove, può decidere quello che vuole. Dall'altro lato c'è un'estrema durezza di atteggiamenti nei confronti di queste cose. Non si risolve tutto come si fa qui, con un buffetto e con tante chiacchiere, con le tavole rotonde. Lì li prendono e li sbattono fuori dalla Lega. Poi, estremo? Sì. Giusto? Non lo so. Legittimo? Legittimo da parte della Lega lo è certamente, perché assume questa posizione. In America fanno così. In America fanno così. Noi facciamo in un altro modo. Luigi Teramo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Sera. La ringrazio perché mi dà questa opportunità. Grazie a lei. Prego. Dica. Nel proseguire il discorso che lei stava facendo, forse sarebbe il caso di evidenziare una cosa, che il sistema americano si fonda su un principio che è quello dell'imprenditoria, della libertà economica, e che è legato principalmente da valori, diciamo così, fiduciari, che l'imprenditore o l'economista o chiunque esso sia, il direttore sportivo, eccetera, instaura con i propri clienti, nel caso, ovvero azionisti, ovvero tifosi. Quindi nel caso di specie è vero quello che dice, che sono molto rigidi, però vanno a tutelare un qualcosa che poi ha ripercussioni positive su tutto il sistema. Sì. Cioè, se si guarda la singola squadra o la singola società, è chiaro che viene fuori un discorso di tipo egoistico, ma va rapportato a tutto il sistema economico, al sistema imprenditoriale, al sistema dei rapporti, il sistema fondato sostanzialmente sulla fiducia. Dunque? Quindi la durezza e la repressione di certi comportamenti portano beneficio a tutto il sistema. Questo è il concetto di fondo che regola il sistema americano. Sì. Anche in economia funziona così. Sì. Basta pensare, guardi, passando da un altro argomento, insomma, che ci entra comunque, basta ricordare semplicemente, dopo la crisi economica americana, che la prima cosa che hanno fatto è stata quella di incrementare la norma, e quindi renderla più dura, più rigida, la norma sul falso in bilancio. Certo. Da noi è stato fatto esattamente il contrario. Certo. Ma io voglio dire, ne faccio un discorso di sistema. Poi ognuno può fare le sue valutazioni, che hanno molti colori, nel senso che da un lato c'è la tutela della segretezza delle conversazioni, che secondo me è un caposalto importantissimo, no? In un sistema democratico. Dall'altro c'è una Lega, che è una tra le più ricche ed importanti del mondo, che prende provvedimenti di estrema durezza come questi nei confronti di una violazione. E onestamente quello che dico io è che il paragone parallelo tra le realtà in cui ci muoviamo, sempre in ambito sportivo, è almeno stridente, trovo. Tutti convocati. Tanto Pagliuca su Repubblica è stato chiamato ad allenare i giovanissimi del Bologna e ha dichiarato: ho vietato orecchini e creste, non alleno mica gli indiani. Questa è la dichiarazione di Pagliuca, che poi su Balotelli ha detto: quelli così, quando giocavo, li appendevo al muro. Viva Spagna! Alex Ferrara, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, salve mister, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Io chiamavo niente per una considerazione un po' sull'estate come è stata, nel senso che io vengo dalla delusione come la maggior parte degli italiani dei mondiali di calcio. Mi ero appena guarito le ferite a cura con una cura di cicatrene e un'altra pomata con principio attivo Nibali e ci sono cascato dentro fino al collo con la pallavolo adesso. Nel senso, una riflessione forse di sport a livello nazionale di squadra, perché forse sugli sport di singoli c'è un discorso un po' più ampio, però a livello di federazione di sport di squadra c'è qualche analogia preoccupante sulla quale magari poter impostare un discorso un po' più ampio. Ecco. Non parlo del basket perché ai mondiali non ci siamo neanche. Quindi. Secondo me appunto è una questione... principio di fondo, settori giovanili e sostanzialmente sono finiti i soldi di qualche anno fa. Sì. È un problema abbastanza serio sì. E grosso. Sì, settori giovanili, anche le mamme che non fanno più campioni, perché certe volte nella banalità più ampia sta la verità. Abbiamo problemi di settori giovanili, certamente. Lei si riferisce alla nazionale di pallavolo che sta stentando in maniera inaspettata, perché comunque questa è una squadra che funziona, si è rifondata, probabilmente pensavamo di essere un po' più avanti nel processo di rifondazione, invece abbiamo fatto un primo girone mondiale orripilante con due vittorie su Belgio e Francia che poi ha vinto il girone, e con tre sconfitte con l'Iran, con Porto Rico che abbiamo scoperto che giocano a pallavolo anche lì, non lo sapevamo. E poi pettinati dagli Stati Uniti, qualificati per il rotto della cuffia, mi riferisco alla nazionale italiana, impossibile o quasi pensare di poter andare avanti. Berruto parla così. Sicuramente i punti che ci portiamo in dote al secondo giro non sono tanti, ce ne sono 12 a disposizione, ci sono tutti sconti diretti, ovviamente adesso tutte le gare rappresentano una potenziale possibilità di recuperare 3 punti, ci sono 3 posti a disposizione, questo è quello che abbiamo davanti a noi, cerchiamo anche di capire quanto è grave l'infortunio di Ivan Zaitsev e ci presentiamo a giocare la prossima gara contro la Polonia. Beh, per l'ascoltatore di Ferrara sì, c'è Nibali, c'è il nuoto, c'è l'atletica, sport individuali che hanno dato buoni segnali di ripresa, a differenza degli sport di squadra, tema lungo che coinvolge anche l'andamento delle ultime Olimpiadi, eccetera, eccetera. Però ce n'è anche un altro che ieri ha inchiostrato l'ottavo titolo mondiale. Yeah. Ma ora siamo qui tutti ad attendere l'arrivo di Toni Cairoli, eccolo qua, ultime curve anche per lui e c'è il boato del pubblico brasiliano, saluta Toni Cairoli, 8 volte campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo e campione del mondo, scusate mi sono ripetuto ma sono 8 volte, grande Toni, bravissimo, merita tutto quello che ha, veramente un grande pilota, un grande uomo, uno che sta a stare con la gente, uno che ha tenuto sempre i piedi per terra, ha affrontato mille avversità. Roberto Ungaro, direttore di Riders, ciao Roby. Ciao, un saluto a tutti. Per uno come te che ha il cuore tassellato, cosa vuol dire 8 volte campione del mondo? Grande, grandissimo, lui ha la sfortuna di essere così forte in uno sport che non è la velocità, pensiamo se fosse in velocità, abbiamo l'esempio vicino, però oggi dobbiamo parlare di lui, grandissimo, perché dalla Sicilia vuol dire conquistarsi tutto con grande difficoltà, quindi vale doppio sacrificio, ci sarebbero tantissime cose da dire su questo uomo che può raggiungere il record delle 10 vittorie mondiali di Evers, lui è ancora giovane, 29 anni tra poco, non si è mai fatto male seriamente, è l'unico che corre con una cilindrata inferiore agli altri, quindi meno potenza, ma è una simbiosi perfetta con il suo stile di guida. Pensate che è andato a vivere in Belgio, dove c'è il terreno morbido, la sabbia, per essere forte lì, e adesso è imbattibile lì, nel terreno dove noi italiani soffrivamo. Non ce n'è per nessuno, è il più forte di testa, di tecnica di guida, i suoi avversari sono giovani, inesperti, ci provano, ma lui è, alla fine è sempre lì. Purtroppo non ci sono avversari degni di lui e questo non esalta ancora la sua prestazione come dovrebbe essere. sta migliorando le cose, perché con la diretta adesso su Italia 1 un po' di persone in più lo conoscono. Curiosità, c'è stata una gara dove la gara del Mondiale d'Italia ha fatto più ascolti della Superbike, il motocross, è stato un sorpasso storico. Insomma, speriamo, se lo merita, perché è veramente una brava persona, davvero. È un pilota straordinario, Roby. Quali sono i suoi punti di forza? Cioè, per uno che adesso vuole vederlo, che dice ok, mi intrippa il motocross, eccetera, cosa deve guardare tecnicamente per capire la grandezza di Antonio? La sua pulizia nella guida, sembra non far fatica, lui sembra galleggiare e passa da una traiettoria all'altra, sta lì, aspetta magari l'avversario che c'è davanti e poi lo infilza quando è il momento giusto, lo fa principalmente di testa. Ha davvero una tecnica di guida che gli consente di fare quello che vuole. Lui anni fa non andò in America, a correre in America, come sai fanno tutti quelli che adesso, è stata una scelta, qualche numero di comodo, diciamo che la sua tecnica di guida è più per le piste europee, per il mondiale, ma è una scelta che ha portato avanti con coerenza e lo sta proiettando verso il record assoluto, perché ripeto, può ancora farcela, ne mancano due per eguagliare Ehlers, ma può superarlo. E non fa fatica nella guida, è quello che è incredibile, nel molle, nella sabbia è una cosa indescrivibile. Per lui sembra che ci sia un tappeto rosso di terreno duro, gli altri sono lì nel mare aperto, nell'oceano mare che annaspano. È fantastico, è una cosa meravigliosa. Pensiamo a Yamaha, che nel 2010 se lo fece scappare perché gli investimenti erano tutti concentrati verso la Superbike, e così lui fece i primi tre titoli mondiali con Yamaha e poi gli ultimi cinque con KTM. Curiosità, la Yamaha poi si ritirò dalla Superbike e si fece lo scappare questo gioiellino. Ormai è un uomo arancione, l'arancio nel cross domina. Certo. Adesso Honda, se posso dire questa brutta parola, si è incazzata e corse ai ripari, e quando mamma Honda non ci sta più a perdere, quando mamma Honda si incazza, ci divertiamo di più. Sì, sai cosa dicono i meccanici con i veri? Dicono: Honda fa le moto, gli altri ci provano. I meccanici vecchia scuola, KTM è fuori strada, è strepitosa, però quando poi Honda arriva e la vedremo sicuramente. Senti, ieri un sacco di volte è suonato l'inno di Mameli, non il mio preferito come musica in generale, però ieri è suonato un sacco di volte anche per Melandri, doppietta. Sì, Melandri va forte così. Se senti gli addetti al settore di vecchia scuola, ti dicono: il talento di Melandri è spaventoso, forse ancora più di Valentino. Il suo problema è la testolina, perché lui di doppiette così quest'anno non doveva farne, era una sua portata, e invece una volta un problema, una volta l'altro, è stato sfigato perché il compagno di squadra l'ha buttato giù, e oggi, infatti ieri si è un po' preso la rivincita. È interessante capire che non c'è stato il gioco di squadra, perché Ghintoli è lui che si gioca il titolo, ma Aprilia non ha fermato Melandri, gli ha tolto dei punti, ma questo è bello per lo sport. Certo. Riflettiamo invece su una Aprilia che ha detto che probabilmente non rimarrà in Superbike e andrà solo in MotoGP, una moto che domina e ancora lo sta. Come valuti questa scelta? Ma è giusta, perché la Superbike purtroppo io la vedo molto male, nel senso che è una serie C adesso più che serie B, nel senso che non ascolti, non c'è il pilota di grido, non c'è chi fa notizia, non si riesce, il padrone lo stesso, Dorna sta cercando di tenere tutte e due, ma secondo me saremo proiettati in una unica MotoGP e alla fine ne resterà solo una, come si deve. Lo dico a malincuore, perché la Superbike ha sempre regalato spettacolo, era una vetrina per la serie, ma la moto sportiva non si vende più. E paradosso, non serve più come vetrina. La Briglia ha la moto più veloce e più competitiva, non vende una moto sportiva. Certo. Sta cambiando il mondo, sta cambiando le cose, questa è una delle tante conseguenze. Quindi dobbiamo al passo con questi cambiamenti, rendercene conto, e alla fine è anche questione di costi. I denari che ci sono vengono dirottati su quello che alla fine è il tuo scopo. Roberto, grazie. Roberto Ungaro, grazie. Sempre ciao, un piacere. Saluto tutti. Ciao Roberto Ungaro, direttore di Riders. Ci fermiamo qui. Grazie Franco Piantanini dal nostro autore, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Scattoni in redazione. Stavolta l'ho detta anche giusta. Ci sentiamo domani dopo GR delle 2. Ce la godiamo così come è fino all'ultima gara con Marco Melandri. Melandri c'è e vince davanti a Sylvain Ghintoli, terza posizione per la Ducati di Chad Davis. Sono davvero contento, prima gara da papà doppietta, Martina ha una statistica eccezionale, 2 su 2. È vero. Fantastica. Non vedo l'ora di tornare a casa, quello è. Vedere il suo sorriso sarà un premio incredibile, anche quello della mamma. Superiorità schiacciante di un Marco Melandri che accarezza la pista di Erez con una grazia da questa mattina quando si è svegliato, inusitata e bella da vedere, con grande carisma. Alla fine di questa gara 2, Melandri c'è un'altra volta, doppietta di Melandri in giornata. E andiamo a vincere, grandissimi. Ciao. Non potevo fare altro, solo salire. Se fossi precipitato mi avresti trascinato. Non è successo. Avrei dovuto fermarmi. Non era più possibile. Perché non vuoi usare gli speed? È un'arrampicata libera. No, è rischiare la vita. Nessuno ti obbliga a venire con me. Tu devi sempre fare quello che ti pare e pretendi che io stia a guardare come un cretino. Almeno ammetti che ci sei andato vicino. Abbastanza vicino. Quale sarà la prossima? Quella che nessuno ancora ha mai fatto.